Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Splendida medaglia d'oro all'Italia nei 200 metri piani ad opera di Berruti. Lo scattista azzurro ha compiuto il miracolo, ha realizzato un'impresa ritenuta impossibile. 20 secondi e 5 decimi. Il record mondiale raggiunto, superato il limite europeo e nazionale nel breve battito di pochi sussulti. Il nostro atleta ha guadagnato su Johnson che gli è accanto. Supera Norton, esce in rettilineo nettamente primo. I due negri americani non possono nulla. E ragazzi, che giornata quel 3 settembre del 1960. Alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti trionfa sui 200 metri col record del mondo. Un oro da leggenda che fa entrare il velocista azzurro dritto dritto tra i miti di Olimpia. Ma giusto qualche ora dopo, sempre quel 3 settembre del 1960, l'Italia conquista un altro oro prestigioso. L'Italia, in calottina nera, presenta la squadra più giovane dell'Olimpiade, un congegno che l'istruttore Zogliomi ha sapientemente montato. 12 anni sono trascorsi dalla vittoria nei Giochi di Londra. È nato il nuovo Sette Belle. Nella piscina del Foro Italico, gli azzurri della pallanuoto vincono il secondo oro olimpico della nostra storia, dopo quello conquistato appunto a Londra nel 1948. E proprio quel trionfo vogliamo oggi rivivere qui a Olimpia, provando anche a vederci più chiaro tra le ombre nere che ancora oggi si addensano intorno a quella medaglia. E allora partiamo subito dal nostro primo grande ospite, protagonista di quella leggendaria vittoria, ma non solo, perché in acqua con la calottina della Pro Recco, di cui ancora oggi è dirigente, ha vinto ben 16 scudetti. Per tutti è il caimano della pallanuoto mondiale. Eraldo Pizzo, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera, buonasera a lei. Signor Pizzo, le chiedo subito, come nacque quella squadra vincente? Quella squadra è nata dal 57, è stata costruita. Sono stati così, tra parentesi, tra virgolette, stromessi un po' di giocatori cosiddetti anziani. E ha cominciato, Zogliomi ha cominciato a costruire questa squadra perché aveva visto gli elementi giusti per sostituire i vecchi Volponi, Rubini, Marciani, Peretti, insomma tutti Carlo Pederzoli, questi grandi atleti qua, e abbiamo avuto un po' di fortuna, siamo arrivati fino in fondo. La cosa straordinaria è stata che abbiamo vinto le Olimpiadi prima di giocare l'ultima partita, quella lì è stata una cosa un po' fuori dal normale, ecco. Ha citato il nome del tecnico l'ungherese Endre Zogliomi, detto Bandi, su cui fra pochissimo ritorneremo. Ma restiamo su questa curiosità che ci ha anche detto. Perché eravate già campioni prima dell'ultima partita? C'era il girone a tre e noi con quei risultati acquisiti siamo scesi in acqua contro l'Ungheria, e non le nascondo che siamo scesi anche in acqua un po' scaricati, perché è stato un errore quello di stare a vedere la partita Russia-Jugoslavia, e col risultato di quell'incontro lì noi praticamente eravamo già campioni olimpionici prima di disputare la partita, perciò ci siamo un po' sciolti e siamo andati sotto 3-1, però di fronte a 16.000 persone che c'erano in piscina sarebbe stato brutto vincere l'Olimpiadi perdendo l'ultima partita, e siamo riusciti insomma comunque a portarla in parità e a portare la medaglia d'oro a casa tranquillamente. Adesso una piccola sorpresa per lei, signor Pizzo, e anche per i nostri ascoltatori. Risentiamo in questo raro audio d'epoca come i cinegiornali di allora raccontarono proprio quella partita storica. Gli italiani praticamente hanno già vinto il titolo, ma devono dimostrare la validità della conquista proprio ai campioni uscenti, agli ungheresi. L'inizio è per gli ungheresi. Il loro vantaggio arriverà a 2-0. Felkai realizza il primo gol. Gli italiani reagiscono. Tirano adesso da tutte le posizioni. Questo gol di Parmegiani riduce il distacco. 1-2. Subito dopo segna Lavoratori. 2-2. Ma gli ungheresi termineranno il primo tempo in vantaggio per 3-2. La squadra italiana è sempre all'attacco. Gli ungheresi sono costretti a commettere più di un fallo per arginare l'offensiva. Infine l'arbitro punisce con un tiro libero i magiari. Tira avanti. L'Italia termina imbattuta davanti all'Unione Sovietica e all'Ungheria. Da far venire i brividi, ancora oggi, vero Eraldo Pizzo? Senta, ma quella decisiva di partita era stata invece un'altra, quindi. La partita decisiva per noi è stata quella con la Russia, perché siamo stati praticamente un pochino più di metà partita con un uomo in meno. Un uomo meno vuol dire subire gol, certamente. E invece noi, Dante Rossi, il portiere, e purtroppo non c'è più, ha fatto una partita straordinaria e tutti noi, diciamo, abbiamo lottato col coltello in mezzo ai denti perché eravamo 2-0 in vantaggio, però se avessero fatto il gol con l'uomo in più, la partita 2-1 si sarebbe rimessa su un binario di rischio, e invece siamo riusciti a portare la partita in fondo senza subire gol e abbiamo finito la partita 2-0. Di lì è stato il momento clou, il momento più importante. Poi la partita successiva con la grande Jugoslavia abbiamo fatto 2-1, è stata una battaglia perché noi siamo andati subito in vantaggio. La Jugoslavia a pochi minuti dalla fine ha pareggiato e noi abbiamo avuto ancora la forza con Parmigiani che ha fatto 2 gol da, diciamo, da distante, da fuori area, ha fatto 2 gol e abbiamo vinto anche quella partita lì. Noi non lo sapevamo, ma quel risultato lì ci consegnava la medaglia d'oro. Abbiamo accennato già a Bandi Zoliomi, il vostro allenatore di allora. Ecco, dal punto di vista tecnico e umano, che persona era? Con lui ha avuto anche dei contrasti, però devo dire che ha portato un po' di innovazione, ha portato un po' di pallanuoto ungherese, anche se erano tanti anni ormai che era in Italia, però c'aveva sempre quell'estro ungherese che secondo me è la patria della pallanuoto ancora oggi, nonostante tutto è sempre l'Ungheria. Oltretutto è una persona allegra, una persona che aiutava i ragazzi, aiutava i giocatori ad impegnarsi, ma essere sempre sereni, sempre allegri, mai cupi, mai tristi per una sconfitta, eccetera. Questo qui penso che una squadra giovane come è stata quella di Roma, perché l'età media dei 23 anni, una squadra che vince le Olimpiadi, insomma è una squadra veramente giovane. Diciamo che lui ha avuto un grande merito proprio caratterialmente, diciamo, perché poi tecnicamente ha avuto la fortuna di avere dei giocatori bravi, di grande livello, e la cosa importante che ci ha portato tutti in forma proprio per quei 10 giorni lì delle Olimpiadi, e questo qui poi è la cosa più importante, è riuscito a far questo. Quindi allenatore brillante, persona cordiale, ma è pur vero, come hanno poi dimostrato molti documenti di cui parleremo nella seconda parte della puntata, che Zoliomi aveva attraversato nel modo più oscuro gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale come collaborazionista delle SS naziste, infiltrato nelle retrovie partigiane. Ecco, ne parlaste mai, vi fece mai accenno al suo passato? Assolutamente, assolutamente. Lui con noi era una persona, come le ho detto, molto allegro, molto spiritoso, molto intelligente, non feriva mai nessuno, non aveva cattiverie contro nessuno. Poi tenga presente che magari oggi i ragazzi si intendono un po' di politica, faccia conto quasi 60 anni fa la politica noi non sapevamo nemmeno cos'era, onestamente. No, non si è mai parlato di politica, ognuno aveva le proprie idee, ma diciamo abbastanza blande. E con Bandi Zoliomi non abbiamo mai parlato assolutamente di nessun, anche quando siamo andati per dire in Russia, abbiamo fatto dei tornei, eccetera, ma non c'era mai la parola politica. Lui non si è mai esposto nei nostri confronti farci capire da che parte era, eccetera. La politica era esclusa dal nostro campo. Ne riparleremo fra poco. Intanto, signor Pizzo, prima di salutarla, le chiedo: ha mai perdonato Livio Berruti per aver in parte offuscato con la sua vittoria il vostro oro? Scherzando, però un po' di ragione ce l'avevo, perché andare a vincere una medaglia d'oro in un sport di squadra 2 ore dopo che l'aveva vinto Berruti nei 200 piano per la prima volta, un bianco che vinceva quella gara lì, un italiano, lei si può immaginare quanto ci ha tolto a noi dalla pallanuoto. Ma con Livio, quando mi capita di vederlo, glielo ricordo sempre e ci facciamo 2 risate. Diciamo che poi alla fine è andata bene anche così. Eraldo Pizzo, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. D'accordo, grazie a voi. Arrivederci. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Ed ecco che tutto il pubblico in piedi a incitare la squadra italiana. Sono ancora gli italiani a lanciarsi all'attacco. Un traversone lunghissimo verso il nostro Parmigiani, raccolti in questo istante prima della linea centrale del campo, controllato da Domotor. Parmigiani continua sempre il pallone e viene viene affidata ora una punizione in favore della squadra italiana, un tiro libero effettuato da Parmigiani che lancia il pallone in avanti verso il proprio compagno di squadra Nunzi che è sulla linea centrale del campo, è inseguito e controllato da Belkai, mantiene ugualmente il pallone, lo lancia poi in avanti al nostro Pizzo che è schierato proprio vicino alla linea dei 4 metri. Ecco che Pizzo tenta di resistere alla carica del suo avversario diretto, ossia di Eve Scivi, riesce infatti e lancia poi il pallone indietro, ma proprio in questo istante l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Gentili ascoltatori, chiudiamo questa nostra radiocronaca dello stadio del nuoto esultando con gli spettatori, con tutti gli altri nostri atleti, con tutte le riserve, con i nuotatori che si sono fatti vicini ai nostri pallanuotisti, esultiamo, ripetiamo con tutti per la splendida vittoria dei nostri pallanuotisti. La voce indimenticabile è quella di Enrico Ameri. La vittoria altrettanto leggendaria è quella del sette bello della pallanuoto azzurra a Roma 1960, celebrata proprio dalla voce del grande radiocronista che così descriveva in diretta gli ultimi istanti dell'ultima partita del torneo olimpico, il 3-3 con l'Ungheria che gli azzurri affrontarono in acqua già sicuri della medaglia d'oro. Abbiamo rivissuto nella prima parte di Olimpia le emozioni di quel trionfo col grande Eraldo Pizzo, uno dei protagonisti di quella squadra, ma abbiamo anche accennato all'oscuro passato che avvolgeva il tecnico del Sette Bello, l'ungherese Bandi Zoliomi, che nel corso del secondo conflitto mondiale era stato collaborazionista e fiancheggiatore delle SS naziste. Ne parliamo con un collega appassionato storico della pallanuoto, autore anche dell'ebook History of Water Polo at the Olympics, scritto interamente in inglese. Simone Pierotti, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Ecco Simone, squadra giovanissima, quel sette bello, ma ricca di talento. Puoi ricordarci quali ne erano i protagonisti? Era una squadra, come hai detto, molto giovane, ma che aveva comunque dei grandi nomi, perché soprattutto i due portieri erano Dante Rossi e Brunello Spinelli, che effettivamente all'epoca erano i migliori numero uno in circolazione. Poi c'erano due grandi stelle della Floreco, come già citato Eraldo Pizzo e Franco Lavoratori, Gianni Lonzi della Ralinantes Florenze, e poi c'era anche Giancarlo Guerrini della Lazio, oltre poi anche a Giuseppe Pino d'Altrui, Rosario Parmigiani e anche Mannelli. Quindi insomma erano dei ragazzi sì giovani, ma molto promettenti. Ecco, concentriamoci ora sulla figura di Zoliomi. Cosa possiamo cominciare a dire di lui? Intanto che era arrivato in Italia negli anni 30 per fare da allenatore e giocatore della Ralinantes Napoli. E infatti in qualche modo viene considerato un padre putativo del primo oro, quello di Londra del 48, perché è vero che l'allenatore, il commissario tecnico del Sette Bello era Pino Valle, ma in realtà lui, appunto, avendo allenato la Ralinantes Napoli e comunque avendo allenato in Italia negli anni precedenti, aveva fatto sì che la pallanuoto crescesse nel nostro paese, tant'è che i veri successi dell'Italia effettivamente arrivano dal dopoguerra in poi. Brillante pallanuotista Zoliomi, quindi, ma ben più opaco il suo passato, vero Simone? Legato a doppio filo con gli apparati del regime nazista. Questa è una storia che effettivamente è sempre rimasta un po' sotto traccia, ma di cui si può trovare notizie addirittura negli archivi della CIA, perché sono presenti i diari di Guido Zimmer, che era un tenente delle SS di stanza in Italia, faceva parte della sezione estera dei servizi segreti del Reich, e appunto in questi suoi diari Zimmer cita il nome di Andreas Zoliomi perché doveva essere un personaggio chiave all'interno di una serie di operazioni portate avanti appunto dai servizi segreti della Germania per fare in qualche modo da sabotatore. In particolare Zoliomi doveva essere il capo di una cellula di presunti comunisti che si sarebbero dovuti infiltrare all'interno dei comunisti italiani del Partito Comunista e in qualche modo poi dopo aprire lo spazio poi per i tedeschi nel nord Italia. Quindi già negli anni napoletani Zoliomi è contiguo ai servizi segreti nazisti? Sì, tant'è che in alcune fonti si dice proprio che ad esempio a Napoli, oltre a svolgere il ruolo di allenatore e giocatore della Ralinantes, era in realtà parte, insomma era agente dell'intelligence militare italiana e poi successivamente diventa proprio addirittura parte dei servizi segreti del Terzo Reich, l'SD. Quindi insomma effettivamente collaborava con la Germania nazista, insomma non penso che si possa affermare senza ombra di smentita, tant'è che nei diari di Zimmer si cita questo Andreas Zoliomi come ungherese e campione di pallanuoto Poi tra l'altro si cita anche la data di nascita, effettivamente tutto combacia. Addirittura Simone, se non sbaglio, sembra che il tecnico ungherese sia stato coinvolto nella trattativa tra gli alleati e il generale nazista Wolf per la capitolazione tedesca in Italia. Diciamo, la storia è andata più o meno così. Lui è presente a Milano nell'estate del 44 e appunto serve ai tedeschi con questo ruolo, cioè quello di infiltrarsi tra le file dei comunisti sfruttando le sue conoscenze con una famiglia che era proprietaria di una farmacia in centro a Milano e che appunto riforniva di medicinali partigiani. Dopodiché nel gennaio del 45 si ha una svolta su più fronti, perché lui, anche se non viene in qualche modo specificato bene nelle varie fonti a noi arrivate, decide di portare avanti i contatti con i partigiani, ma non per tradirli. Zimmer ne viene a conoscenza e lo fa restare nel suo appartamento, anche se poi viene rilasciato già il giorno seguente, e in qualche modo non subirà ripercussioni. Poi al tempo stesso va detto che i servizi segreti del Terzo Reich portarono avanti un'operazione che poi non andò a buon fine, delle trattative segrete con i servizi segreti americani, per arrivare a una resa dei tedeschi nel settentrione per lasciare poi il potere in mano agli alleati. Sempre nel 1945 viene poi fatto prigioniero dagli americani, Zoliomi, però riesce ad andare avanti, insomma, e a scamparsela. Queste le radici nere in cui attecchisce l'oro di Roma. Ma si sa, la parabola dei campioni non è eterna, caro Simone, e 4 anni dopo, ai Giochi di Tokyo, cosa accade quindi di Zoliomi e di quel sette bello? Già nel 64, si può dire, con i successivi Giochi Olimpici di Tokyo, le aspettative erano ovviamente maggiori. La squadra arrivò a quarta e infatti Zoliomi si vede ricevere il ben servito dall'allora presidente federale Parodi, che lo sostituì con quello che era stato il suo predecessore, Mario Maioni, ed era stato anche il suo ex giocatore, perché alla guida della canottieri Olona di Milano Zoliomi aveva vinto anche il suo secondo scudetto in Italia nel 1947. Ti chiedo ancora, quale eredità ha lasciato quell'oro della pallanuoto a Roma 1960? Ovviamente non fu come la prima volta a Londra, ma va detto che fu un oro conquistato in casa. Tra l'altro furono i Giochi di Roma considerati quelli che hanno cambiato la storia dello sport, perché furono, diciamo, le ultime Olimpiadi della dimensione uomo, e quindi ovviamente ebbe un'ampia cassa di risonanza, tant'è che poi a tutte le partite del Sette Bello lo stadio del Nuovo di Roma traboccava di tifosi che cantavano l'inno di Mameli a squarciagola, quindi effettivamente ebbe un grande impatto sulla pallanuoto italiana, tant'è che poi dagli anni 60 in avanti l'Italia si inserisce stabilmente fra le nazioni leader di questo sport, soprattutto negli anni 70, dove arriveranno un argento olimpico e soprattutto il titolo mondiale del 78. E tra l'altro in entrambi i casi l'allenatore era Gianni Lonzi, che aveva vinto la medaglia da giocatore a Roma, quindi ecco, questo direi che è il segno tangibile dell'eredità lasciata dall'oro di Roma, perché i giocatori di allora sono poi diventati degli ottimi allenatori che hanno formato a loro volta altri campioni. Simone Pierotti, ancora complimenti per il tuo ebook History of Water Polo at the Olympics, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24.